sicuramente al momento di prenderla non è stato facile, non è tanto frequente, insomma, che quando le cose vanno bene si va d'accordo con tutti, si sono ottenuti i risultati e c'è anche la prospettiva di continuare ad ottenerli, si pensi che sia meglio mollare, no, in quel momento. E magari mi mancherà più avanti, perché sicuramente poi durante l'estate, vedendo così, gli europei, eccetera, senz'altro un pochino di magone tornerà, però adesso sinceramente sono molto, molto concentrato nella stagione con l'Olimpia e credo che, e sono convinto di aver preso la decisione giusta, sia direi soprattutto per poter finalmente prendere un po' di fiato, stare anche un pochino più con la mia famiglia, che senz'altro è stata un po' la grande sacrificata di questi ultimi anni di lavoro con, certo, con il club e con la nazionale.